Letture di Radio 24. A chi, dopo la pubblicazione dei suoi libri revisionisti sulla guerra civile, gli chiede se sia diventato di destra, Giampaolo Pansa risponde di non riconoscersi più ormai in nessuno schieramento politico. Ma di fronte alla prospettiva, da lui ritenuta molto probabile, di un prossimo ritorno al potere della sinistra, sente il bisogno di tracciare un quadro dei progressisti più rappresentativi, descrivendone i vizi e collocandoli in una serie di gironi infernali. Così Giorgio Napolitano e Carlo De Benedetti finiscono nel girone degli invincibili, Antonio Di Pietro e Concita De Gregorio in quello degli isterici, Cesare Battisti e Filippo Penati in quello degli inguaiati, e così via. C'è anche un girone dedicato ai dispersi e qui, assieme a Francesco Rutelli e a Vittorio Agnoletto, troviamo Francesco Caruso, ex leader dei No Global ed ex deputato di Rifondazione Comunista. Dopo la laurea in scienze politiche, per campare Caruso cominciò a occuparsi di installazioni di computer e di software. In quella fase era conosciuto soltanto nel mondo degli squatter cibernetici napoletani, con il soprannome di Net Striker. Però si capì subito che aveva traguardi assai più ambiziosi. Un giorno decise, cito parole sue, di non essere più trattato da clandestino e cominciò a compiere incursioni nel far west di Internet, creando siti falsi come quello dell'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Passo dopo passo, la sua notorietà crebbe, aveva la stoffa del piccolo capo. Concionava con la prosopopea giusta. Era anche ambizioso e si intuiva che sarebbe diventato l'agnoletto della Campania. Nell'anno 2000 era già il leader e il portavoce della rete No Global, un magma di centri sociali come l'Officina 99 di Napoli, di nuclei rossi antagonisti, di disoccupati, di emarginati eppure di sfaticati. Un mese prima di Genova, Caruso ebbe la bella pensata di spedire al ministro dell'interno Claudio Scajola, un big del centrodestra, il bossolo di un proiettile per fucile raccolto a Sarajevo. Era per intimidirlo? Caruso replicò, ma no, è soltanto una provocazione per invitarlo a riflettere sulla potenza distruttiva di una pallottola e fargli capire che a Genova anche i poliziotti dovranno andare disarmati. Così eviteremo che dopo il signor ministro debba giustificare il cadavere di un ragazzo. Non risulta se anche Caruso, a somiglianza del dottor Agnoletto, fosse convinto di aver vinto a Genova. Ma è certo che gli scontri per il G8 non calmarono la sua voglia di combattere. 15 giorni dopo, il 6 agosto 2001, annunciò che la sua rete No Global, chiamata Sud Ribelle, sarebbe andata niente meno che all'assalto della NATO. Convenuta a Napoli per discutere dello scudo spaziale, un'occasione da non perdere. Caruso dichiarò ai media: «È l'appuntamento dei fabbricanti di morte. Non potremo stare fermi e impediremo lo svolgimento del vertice. Li prenderemo d'assedio, saremo in 30.000. Come la mettiamo con quelli che ci caricano, ci sparano, ci vogliono morti? Siamo autorizzati a reagire con i loro metodi? Non lo so, però me lo chiedo». Poi Caruso disse, o i media gli fecero dire, che per bloccare il summit della NATO gli inflessibili si sarebbero presentati armati. Lui smentì. Subito dopo smentì anche un altro progetto ribelle, irrompere nella base NATO di Bagnoli il 20 agosto per ricordare dopo un mese l'uccisione di Carlo Giuliani a Genova. Era l'ennesimo progetto partorito dalla fantasia di Caruso. Anche lui un formidabile parolaio che aveva imparato bene la lezione della casta tanto odiata. Lasciò che i giornali cucinassero bene la sua bufala. Poi fece marcia indietro e si limitò a spiegare: «Esporremo soltanto uno striscione». Un parolaio del calibro di Caruso poteva restare fuori dal Parlamento? Certo che no. E infatti, per grazia di Bertinotti, nel voto dell'aprile 2006 fu presentato come capolista di Rifondazione in Calabria e venne eletto. Aveva 31 anni ed era il più giovane tra i deputati rifondaroli. A Roma gli piaceva fare coppia politica con un altro deputato fresco di nomina. Era Vladimir Luxuria, un quarantenne pimpante con l'aspetto e gli abiti della signora borghese molto piacente. Tutto il contrario dei soliti travestiti. Insieme organizzarono delle beffe. Con l'aiuto di Vladimir, Caruso tentò di entrare a Montecitorio portando uno scatolone di finte bottiglie Molotov. Poi introdussero alla Camera un altro contenitore pieno di preservativi e di cartine per spinelli. Caruso sembrava avviato alla goliardia parlamentare, ma nell'agosto del 2007 incappò in un passo falso di quelli imperdonabili. Disse che Marco Biagi, il giurista ammazzato dalle Brigate Rosse, e con lui Tiziano Treu, già ministro del lavoro nel primo governo Prodi, erano due assassini, perché avevano varato delle leggi che erano costate 1.200 morti all'anno. Quando si rese conto della terribile gaffe, Caruso cercò di attenuare il peso delle sue parole. Ma la marcia indietro non lo salvò dalla replica di Liberazione, il quotidiano di Rifondazione. In quell'epoca il giornale era diretto da Piero Sansonetti, un tipo sinistro con la buona abitudine di parlare chiaro anche sul conto dei compagni. Sul numero del 10 agosto scrisse che quelle di Caruso erano pure idiozie e lo bollò come il cretino di agosto. In compagnia del vice sindaco leghista di Treviso, Giancarlo Gentilini, che aveva affermato: «Incaricherò i vigili di fare pulizia etnica dei culattoni». Caruso non venne salvato neppure dalle molte lettere di solidarietà arrivate a Liberazione e non riuscì a scrollarsi di dosso il bollo di cretino d'agosto. Nelle elezioni del 2008 fu candidato in Veneto, sempre per la Camera, ma qui incontrò l'ostilità del Casarini, quello delle tute bianche. Lui disse di Caruso: «È peggio di Mastella. Si è fatto paracadutare qui, ma non sa nulla del Veneto e delle sue lotte. È un esempio di meretricio, la dimostrazione che si può fare di tutto pur di avere una poltrona in Parlamento». Il problema venne risolto da un evento catastrofico per la parrocchia neocomunista. Dalle urne del 2008 non uscì nessun parlamentare di Rifondazione, né alla Camera né al Senato. Di Caruso si persero le tracce. Ecco un altro tipo sinistro diventato un disperso. Secondo il catalogo dei viventi pubblicato da Marsilio, trovò un lavoro nel Parco Nazionale del Gran Sasso. Dalle 10 di sera alle 5 di mattina doveva contare i lupi che circolavano in quell'area, per uno stipendio inferiore ai 1.000 euro al mese. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine dal libro di Giampaolo Pansa, Tipi sinistri, i gironi infernali della casta rossa. Rizzoli Editore, 432 pagine, 19,50 euro.